Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donnelly, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi parliamo dal riconoscimento, dal tributo che l'Europa riconosce a un grande leader politico internazionale. Parlo naturalmente di Shimon Peres. Shimon Peres che non ha mai perso la speranza nella pace e, come ha detto questa mattina l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini, non ha mai smesso di lavorare per trasformare la speranza in realtà. Insomma, un grande leader che è stato ricordato questa mattina anche dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Ha detto oggi: gli israeliani perdono un padre, un punto di riferimento nel panorama politico della storia di Israele. E ha aggiunto: salutiamo la memoria di un uomo di Stato eccezionale e visionario. Questo dunque il tributo al leader israeliano scomparso questa notte. Intanto la cronaca: ambulanti dei mercati rionali in piazza oggi contro la direttiva Bolkestein. Sentiamo perché nel servizio. Ambulanti dei mercati rionali in piazza oggi contro la Bolkestein, la liberalizzazione delle licenze imposta dall'Europa al governo con una direttiva del 2012. Secondo i manifestanti sostenuti da UGL, parte di CISL e Movimento 5 Stelle, la direttiva manda in rovina un settore con 200.000 imprese. A Piazza Esedra ha parlato anche l'ex sindaco Gianni Alemanno. Qui c'è tutto un popolo che rischia di scomparire, ci sono milioni di posti di lavoro che vanno a rischio, intere tradizioni familiari. Ma Confcommercio e Confesercenti non appoggiano la manifestazione. Maurizio Innocenti, presidente di Confesercenti. Abbiamo fatto un lavoro per trovare una soluzione che garantisse il recepimento della normativa, ma al contempo il lavoro agli oltre 100.000 operatori regolari nostri, che non prevedeva più il rinnovo automatico, ma si doveva passare da bandi. Tutte le ditte regolarmente iscritte e tutte le ditte regolarmente in regola con i propri obblighi non corrono nessun tipo di rischio. Pur rispettando il libero arbitrio di volersi operare o meno, non condividere le scelte di altri, però noi garantiamo tutti con questa operazione. L'iniziativa di oggi tende a garantire interessi privati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci torneremo su questo tema anche in vista dei mercatini natalizi. Insomma, ci sono aspetti da approfondire. Ora invece parliamo di conti, regole europee, e di questo ha parlato anche questa mattina il presidente del Consiglio dei Ministri Renzi. Dice: regole europee che io non condivido ma che rispetto, le rispettiamo tutte. Insomma, un riferimento alla contabilità europea di cui ci fa il punto questo servizio. Deficit ad almeno il 2,3% il prossimo anno, 6 decimali in più per un margine di manovra complessivo di 8 miliardi. Sarebbe questo, secondo fonti di Bruxelles, l'orientamento ufficioso della Commissione europea nei confronti dell'Italia, tenendo conto delle emergenze per il recente sisma e per i flussi migratori che rendono il nostro paese uno dei maggiori punti di approdo europei. Nonostante l'impossibilità teorica di concedere ulteriore flessibilità a Roma, dopo che il nostro paese ne ha già completamente beneficiato, l'orientamento di Bruxelles starebbe dunque assumendo sfumature più politiche che tecniche, anche al fine di evitare scossoni di governo a soli 2 mesi dal referendum costituzionale, col rischio dell'apertura di una crisi politica. Ufficialmente il commissario all'economia Moscovici parla di dialogo positivo in corso con l'Italia, ribadisce la necessità di rispettare le regole esistenti e guarda con fiducia al DEF, nella speranza che i numeri di Bruxelles e quelli di Roma, soprattutto sul deficit, si avvicinino il più possibile, anche perché sa che all'interno della stessa commissione, dove è presente un'ala rigorista, i margini di trattativa non sono infiniti. Di qui il monito di Moscovici: nessuna flessibilità al di fuori del patto di stabilità, prima di smussare il concetto con un gioco di parole, sì però alla flessibilità all'interno delle regole, la conferma che alla fine sarà anche una partita politica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questa nostra edizione. Naturalmente Europa 24 torna domani come di consueto alle 14. Adesso è tempo di sport, tutti convocati con in conduzione Giovanni Capuano. Ci sentiamo più tardi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.